bello è baciar la bocca che più ti piace, e donando un fiore quante ne ho baciate, ma quella che al mio cuore non dà più pace, dopo un anno ancora non si fa baciar. Fiorellin del prato, messagger d'amore, bacia la bocca che non ha mai baciato. Fiorellin del prato, non mi dire di no, ogni serenata dice con languore, bella tra le più belle è la bocca amata, ma di sete muore chi non può baciare. Amor, mi farai contento, fiorellin del prato, messaggero d'amore, bacia la bocca che non ha mai baciato, fiorellin del prato, non mi dire di no, che batti cuore quando le sto vicino, e tra le mie mani stringo le sue mani, ma come si rannuvola il suo visino quando sulla bocca la vorrei baciar. Fiorellin del prato, messaggero d'amore, bacia la bocca che non ha mai baciato. Fiorellin del prato, non mi dir di no, ogni serenata dice con la sete muore chi non può baciar. Amor, mi farai contento, amor, se la baci tu. Fiorellin del prato, messaggero d'amore, bacia la bocca che non ha mai baciato. Fiorellin del prato, non mi dire di no, fiorellin del prato, non mi dire di no.